Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. So 1-0 up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e buona domenica a tutti. Oggi parleremo di futuro, di un futuro che è già cominciato e forse è anche già finito ed è il peggiore dei mondi possibili. Tramontate le utopie, è il momento delle distopie, non sogni ma incubi, non paradisi ma inferni, un po' come quelli immaginati a suo tempo da George Orwell in 1984 o da Aldous Huxley in Mondo Nuovo. La differenza è che mentre quelli erano scenari evitabili e da evitare, derive allucinanti che l'umanità poteva e doveva scongiurare, le distopie della narrativa contemporanea, specialmente di quella di moda tra i teenager americani, sono caricature del presente che non lasciano aperte molte vie di redenzione. Ma di questo parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma parleremo anche di calcio e della storia di questo sport nell'Africa dei mondiali. Intanto però ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi. Africa. Come il calcio ha cambiato il continente nero. Francia. La fede nel pallone, quando il Vangelo scende in campo. Visti dagli altri. Francia. Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di un documentario sul problema dell'immigrazione clandestina. America. È il momento della dystopian fiction. Ai giovani piace un mondo da incubo? Giappone. Boicottato il documentario che denuncia la mattanza dei delfini da parte dei pescatori giapponesi. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off, cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. È la voce di Shakira con Waka Waka, la canzone scelta dalla FIFA come inno ufficiale dei mondiali di calcio che si sono aperti venerdì in Sudafrica. E proprio del rapporto tra calcio e continente nero è dedicato un articolo sul Nouvel Observateur che ha intervistato Peter Aleji, uno storico dell'Università del Michigan, che ha appena pubblicato un libro in America intitolato La Duma, Soccer, Politics and Society in South Africa. Calcio, politica e società in Sudafrica, un libro che esce proprio nei giorni dei mondiali e che così si sofferma su quella che è un po' la storia di questo sport in Africa. Dice in questa intervista Peter Aleji che le prime partite di calcio risalgono addirittura al 1862, furono i coloni britannici a importare questo sport nel Sudafrica. E l'intento era quello di incrementare lo spirito di squadra e di diffondere le norme, i valori della società industriale anche nelle colonie, ma c'era anche ovviamente l'intento di rafforzare il controllo sociale dell'elite bianca e di canalizzare quelli che venivano allora considerati gli istinti selvaggi delle popolazioni locali. Addirittura nell'epoca vittoriana si parlava di cristianesimo muscolare, cioè che era insomma una cultura che doveva, attraverso l'educazione fisica, rafforzare la disciplina dei cittadini e la loro sanità, oltre che fisica, anche mentale. Dopo gli inglesi, anche i francesi e i belgi diffusero il calcio nelle loro colonie africane. Ma in seguito, spiega Peter Alleghi, lo storico americano, gli africani hanno preso possesso di questo sport e lo hanno in qualche maniera modellato su quella che è la loro cultura. Intanto salutiamo il nostro ospite Darwin Pastorin, che ringraziamo di essere qui con noi. Benvenuto alla Finestra sul Cortile. Buongiorno, grazie, ciao. Buona domenica. Ci diamo del tu perché siamo colleghi. Darwin Pastorin, giornalista e direttore di Quarta Rete TV e anche autore di numerosi libri sul calcio, tra cui ricordiamo Lettera a mio figlio sul calcio, I portieri del sogno, Le partite non finiscono mai, anche Reti e parabole sui rapporti tra TV e calcio. Ecco, una volta c'era il Sud America dei Pelé, dei Maradona, ora a quanto pare c'è l'Africa, insomma, non soltanto perché ospita i mondiali, ma perché in qualche modo i calciatori africani, secondo quanto si dice in questo articolo, ma mi pare che sia una realtà che osserviamo anche in Italia, hanno cambiato un po' il modo di giocare, anche nelle squadre in cui sono stati reclutati. Sì, possiamo dire che sono i nuovi sudamericani che hanno portato nel calcio l'allegria e lo spettacolo. Loro hanno ancora una mentalità bella del calcio, quella che risale un po' all'epifania di questo sport, il fatto di giocare per divertimento. Quali sono gli esempi, diciamo, più significativi, i giocatori più importanti che giocano nelle squadre italiane che tu puoi ricordare? Beh, noi abbiamo avuto tante storie in questi anni, abbiamo avuto il mistero di Steve Moccone nel Torino negli anni 60, che ha fatto 5 reti in un amichevole e poi non giocò mai con la maglia granata. Abbiamo avuto con la riapertura delle frontiere, ad esempio all'Ascoli, Zaoui della Costa d'Avorio, un altro mistero, ma poi andando avanti col tempo… Perché mistero? Perché non ha mai giocato, insomma, rientra in quella categoria, ahimè, che noi cronisti sportivi definiamo dei bidoni storici, anche se insomma era un discreto giocatore. Poi abbiamo avuto personaggi straordinari come Liberiano Weah nel Milan, certo, che ha vinto il pallone d'oro, ha vinto campionati ed è tra l'altro uno dei primi ad andare in Sudafrica a rendere omaggio a Mandela. Il Torino ha avuto un ghanese, Abedi Pelé, ecco, si portava vicino questo Pelé perché assomigliava nel modo di giocare al grande Edson Arantes del suo nascimento, per finire con Eto'o, che ha contribuito del Camerun ai 3 successi alla tripletta di Mourinho nell'Inter con Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Ecco, l'altro giorno sul Corriere Mario Sconcerti ricordava che il calcio africano è nato 40 anni fa a Robben Island, in una carcere di massima sicurezza dove stava Nelson Mandela, quando i detenuti neri giocavano scalzi con un pallone di stracci. Ma come si giocava nelle periferie povere brasiliane, ancora oggi molti giocatori brasiliani poveri hanno difficoltà a indossare le scarpette da pallone. Ricordo che il grande Leonidas chiese per favore di poter giocare il mondiale scalzo, ma gli dissero: no, guarda, assolutamente devi mettere le scarpette. Il regolamento lo vieta. Il regolamento lo vieta, però bisogna dire che ci sono giocatori che stanno nascendo in Africa che sono straordinari. Il problema, secondo me, ancora del calcio africano è che mancano gli allenatori africani di un certo livello. Le grandi squadre sono sempre allenate da allenatori stranieri, pensiamo ad esempio alla Costa d'Avorio che è allenata dallo svedese Eriksson, al Sudafrica da un brasiliano, ecco, quindi voglio dire manca ancora una scuola locale autoctona. Ecco, ma i mondiali aiuteranno l'Africa a uscire dalla miseria o saranno un'altra occasione mancata? Ah, questa è una bellissima domanda, guarda, perché i mondiali in Sudafrica sono pieni, densi di significati, no? Cioè, questa grande immagine, no? Si gioca nella nazione di Nelson Mandela, storica, un fattore storico, il primo mondiale africano, e ci dovrebbe essere anche il fattore economico. La mia preoccupazione è sempre questa, che dopo spenti i riflettori tutto alla fine rischia di ritornare come prima. Sono stati spesi tantissimi soldi per gli impianti e poi che cosa resta alla alla gente povera. Che cosa resterà di tutto questo oro, di tutta questa luce? Soltanto un grande abbaglio, oppure anche a loro, ecco, ci sarà del beneficio? Ecco, questa è una domanda impegnativa e difficile, a cui al momento non sappiamo dare una risposta. No. Beh, ma noi ringraziamo Darwin Pastorin, buona domenica e a presto. Buona domenica, a presto. E restiamo in tema di calcio, andiamo in Francia, sulle pagine del quotidiano cattolico La Croix si parla del rapporto tra calcio e fede, un articolo intitolato «Au football, l'Evangile n'est pas hors jeu», il Vangelo non è fuori gioco, sostiene che appunto si sta diffondendo una cultura anche religiosa e spirituale del calcio. Questo pare un po' sorprendente in uno sport in cui segnato dagli scandali, dagli insulti e dalle scorrettezze in campo e fuori. Ma in questo articolo si intervista per esempio padre Edouard Georges, che è stato il capitano della squadra dei seminaristi francesi che ha partecipato l'anno scorso a Roma alla Clericus Cup, e che sostiene che Gesù è un commissario tecnico che ti allena tutta la vita. Il guaio è che la squadra vaticana ultimamente commette troppi falli. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Parigi. Sulle pagine del settimanale L'Express troviamo un'intervista a dir poco entusiastica di Paola Genone a Valeria Bruni Tedeschi, l'attrice italiana naturalizzata francese e sorella della più famosa Carla, che lancia in questi giorni il suo film Les Mains en l'air con la regia di Romain Goupil, un film che affronta la questione degli immigrati irregolari, dei cosiddetti sans-papiers. La giornalista descrive Valeria Bruni Tedeschi come felina, focosa, con gli artigli affilati, e nell'intervista tra l'altro la nostra brava attrice dice di avere una visione umanista della vita. A un certo punto l'intervistatrice le chiede: ma non è che facendo un film sui sans-papiers poi c'è qualche dissenso in famiglia? E lei dice: beh, naturalmente il marito di mia sorella non la pensa come me, ma del resto i membri di una famiglia non hanno sempre le stesse idee, possiamo avere convinzioni differenti, possiamo anche prenderci per i capelli, ma poi alla fine si cena insieme e ci si ama. Dov'è il problema? La finestra sul cortile. Era l'inquietante risata dell'attore horror Vincent Price, che chiude la canzone Thriller di Michael Jackson del 1982. E con questa atmosfera da incubo introduciamo la seconda parte della nostra puntata della Finestra sul Cortile. Intanto diamo il benvenuto al nostro ospite. Buongiorno Tiziano Scarpa. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi alla Finestra sul Cortile. Tiziano Scarpa, scrittore, premio Strega 2009 con Stabat Mater, ha appena pubblicato da poco il suo ultimo romanzo Le cose fondamentali, che è la lettera aperta a un figlio appena nato, anche se è una cosa immaginaria. Ecco, tra l'altro in questo libro si parla anche della svolta, insomma, dell'adolescenza, e proprio del rapporto tra gli adolescenti, in particolare gli adolescenti americani, e gli scenari da incubo di quella che viene definita la dystopian fiction, parleremo con il nostro ospite, a partire da un articolo del settimanale New Yorker di Laura Miller, che analizza appunto questo fenomeno, che pare che ci sia un boom in America di questa forma di narrativa distopica, cioè che è il contrario, insomma, dell'utopia, un'utopia negativa, e in particolare c'è una certa Susan Collins che addirittura ha venduto più di 2 milioni di copie delle prime due puntate della sua trilogia The Hunger Games, in cui immagina un mondo allucinante e dove ogni anno vengono estratti a sorte 2 bambini per ogni distretto e devono partecipare ad una sfida tra gladiatori, una sfida televisiva che si chiama appunto The Hunger Games, in un'arena all'aperto. E quello che scrive Laura Miller è che è curioso che questo sia soltanto uno dei tanti che hanno un enorme successo tra i giovani, che a differenza delle distopie qui per adulti non lasciano molto spazio alla speranza e al riscatto. Ecco, ma Scarpa, questo fenomeno è solo americano o anche in Italia i teenager amano le storie da incubo? Io penso che sia una situazione che abbiamo visto in varie fasi della storia culturale. C'è un dato fondamentale, secondo me, che è quello della mancanza di potere degli adolescenti, che si vedono già nel loro percorso verso il diventare adulti, già pieni di voglie, desideri, anche desideri di potere, e non solo turbamenti di carattere sentimentale e sessuale. Insomma, sono davvero degli adulti giovani, però senza la possibilità di realizzare quello che vogliono, e spesso proiettano, vengono risarciti da delle figure, da delle icone. Pensiamo ai supereroi, certo. O pensiamo anche a un Jim Hawkins nell'Isola del Tesoro, che era risolutivo, era un piccolo supereroe perché riusciva da solo nei momenti cruciali del romanzo di Stevenson a guidare da solo un vascello intero, insomma, in un capitolo bellissimo dell'Isola del Tesoro. Ora, cosa succede? Succede una cosa paradossale, che questi adolescenti di oggi hanno di fatto un superpotere dalla società, come se fossero dei supereroi, hanno un superpotere nel marketing dei prodotti culturali, cioè vengono prodotti per loro i più grandi colossi cinematografici, no? Quelli con investimenti milionari, miliardari, oppure queste tirature pazzesche che colonizzano l'immaginario, cioè quello che non riescono a realizzare nella vita di famiglia, a scuola, dove magari, no, gli si dà giusto un motorino a una certa età facendoglielo sudare, invece ce l'hanno in queste storie, produzioni pianificate industrialmente dell'immaginario, quindi vengono come risarciti simbolicamente e diventano dei supereroi di quello che è il prodotto culturale più diffuso. Quello che sostiene Laura Miller in questo articolo del New Yorker è che, a differenza delle distopie di Orwell o di Huxley, questo non è un futuro che si può scongiurare, che cambiando il comportamento dell'umanità si riuscirà a evitare, ma in realtà è una versione di ciò che già sta accadendo nel mondo in cui i ragazzi vivono, insomma è una specie di caricatura del loro mondo. Sì, in quell'articolo viene citato anche in una di queste dystopian novel una sorta di grande fratello, Isola dei Famosi Estrema, esatto, dove si lotta all'ultimo sangue, sono proprio dei ragazzini che devono contendersi il premio sopravvivenza, premio-sopravvivenza. Ma certo, io credo che questo sia coniugato anche con la sensibilità anche salutare, sensibilità ecologica, della esauribilità delle risorse sul pianeta, e quindi aiuti anche a, come dire, tradurre in fantasia quello che è una sensibilità civile, politica, economica vera, importante. Noi europei siamo anche un po', è interessante vedere perché questa cosa di solito è prodotta dal mondo anglosassone, nello specifico dal mondo americano. Non dimentichiamo che noi europei abbiamo già vissuto nella distopia, anche culturalmente, nell'immaginario e nella vita reale. Noi abbiamo già abitato le rovine, pensiamo alla grande arte occidentale di Piranesi, Canaletto, Bellotto, Egitto, con tutta l'amore per la rappresentazione delle rovine, dove ci sono di fatto degli abitanti delle rovine. E io invece penso a un piccolo contributo, ma incisivo, che ha dato la letteratura italiana negli anni 90, all'inizio degli anni 2000. Pensate a Io non ho paura di Niccolò Magniti, a Dei bambini non si sa niente di Simona Vinci, o a Certi bambini di Diego De Silva. Beh, lì la distopia non era del paesaggio fisico, ma del paesaggio morale. Interiore, erano, certo. I ragazzini in una situazione di solitudine etica. Dovevano capire il senso del bene e del male da soli, perché i grandi non erano in grado di erogare una morale plausibile. Vuoi perché erano assenti, o vuoi perché erano loro i criminali, coloro che facevano torto o facevano il male. Bene, noi ringraziamo Tiziano Scarpa, buona domenica e a presto. Grazie. E andiamo in Giappone, in un cinema di Tokyo è stato cancellato dalla programmazione il film americano The Cove, che parla della caccia ai delfini in un villaggio giapponese, una tradizione che purtroppo è ancora viva nel paese del Sol Levante, ma che in questo film viene denunciata con forza. Evidentemente la verità sulla carta stampata o sugli schermi grandi e piccoli fa paura, e non soltanto in Giappone. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Peter Bascapè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora.